Don Giovanni, quinto del nome nella successione dei re, andrà questa notte in camera di sua moglie, Donna Maria Anna Giuseppa, che è giunta da più di 2 anni dall'Austria per dare infanti alla corona portoghese e fino ad oggi non ce l'ha fatta a ingravidare. Già si mormora a corte, dentro e fuori dal palazzo, che la regina probabilmente ha il grembo sterile, insinuazione molto ben difesa da orecchie e bocche delatrici, e che solo fra intimi si confida. Che la colpa ricada sul re, neppure pensarlo. Primo, perché la sterilità non è male degli uomini, ma delle donne, e per questo tante volte sono ripudiate. E secondo, tangibil prova, seppur fosse necessaria, perché abbondano nel regno bastardi del real seme, e anche ora la fila gira l'angolo. Questo era l'incipit del Memoriale del Convento di José Saramago. Seconda parte di Eclettica, con Giulio Caperdoni, tutti i giorni, tra le 19 e le 20, ancora per poche settimane. Hyacinth House con Rosewood Country Club, e questo è il delicato brano che ha aperto la seconda parte del volume numero 4. Paolo Benvenu poi con La Schiena e infine Gringo Starr con All Y'all, sono questi i 3 brani che vi siete ascoltati fino ad ora. Per arrivare ad un bel disco d'esordio per la Anticon, pronunciandola all'italiano, un disco che è uscito il 19 di febbraio dal titolo At War with Walls and Mazes, a nome Son Lux, che è poi lo pseudonimo dietro cui si nasconde Ryan Lott. Noi ci ascoltiamo la traccia che si intitola Break. We'll be right back. An unusually high number of children laid to rest here, most of whom passed in the 1940s. Yet no one in the town seems to recall anything unusual about this time, to us anyway. Yet legend tells a different story, one whose evidence is all around us, etched in stone. Tu sei cattivo come perché. Ciao Giulio, ho voglia di scriverti queste frasi. Che cos'è la felicità per te? Bella domanda, eh? Anzi, meglio, sei felice? Più difficile. Premetto che secondo me non ci sono domande stupide o inopportune, ma solo risposte stupide. Alla domanda sei felice? Rispondo di sì. Non sono presuntuoso, non ho neanche una donna che mi fa brillare gli occhi. Solo che per me è così, è un mio nuovo stato di equilibrio. Però mi innamoro quasi ogni fine settimana al Locomotive Club di Bologna. Ci sono buone vibrazioni là e non sono gli Aperol vino. Il bello viene adesso. Per rispondere completamente alla domanda devo dire che la felicità è nulla se non condivisa. Non è reale. Dal film Into the Wild. Quindi serve qualcuno. Un DJ, un amico, una compagna, una moglie, un genitore, un parente, un fratello, una sorella, un figlio, anche uno sconosciuto. Per toccare il cielo come noi lo intendiamo, abbiamo bisogno di un aiuto, un trampolino, cioè una persona. A volte ci riesce da soli se siamo così bravi, e spesso lo siamo. In fondo, non siamo così male, vero Giulio? Ciao, notte, viva Radio Alice. Questo era Robert, che scriveva da Bologna. E questa è la musica di Eclettica che sta volgendo al termine, musica che vi siete appena ascoltati e musica che sta per arrivare. Quella che vi siete appena ascoltati è degli italiani Il Genio con Pop Porn, quella che invece vi state per ascoltare è dei New Yorkesi Sound Pool, usciti a inizio di marzo con Dichotomies and Dreamland, dal quale estraggo Pleasure and Pain. Eclettica, stagione numero 14, l'ultima stagione, settimana numero 21, volume numero 4, indice, Sunset, Back to Blonde, Peter Moran, We Are Scientists, Parts and Labor, Hyacinth House, Paolo Benvenu, Gringo Star, Sunlux, Il Genio, Soundpool. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.